Salva Danaio di Deborah Rosciani. Benvenuti a Salva Danaio, buona giornata da Deborah Rosciani. Allora, i più teneri l'hanno chiamata regolarizzazione selettiva, alcuni esponenti del governo hanno parlato di una regolarizzazione contributiva, altri ancora hanno definito l'operazione di cui vi andiamo a parlare questa mattina, non senza preoccupazione, una vera e propria sanatoria generalizzata di clandestini. Di fatto, molte famiglie sono già alla ricerca di informazioni dettagliate su come sarà possibile a settembre regolarizzare colf e badanti e regolarizzazione che riguarda i cittadini italiani, ma anche gli stranieri. Ma è chiaro che l'attenzione è massima intorno al popolo degli extracomunitari che in larga parte esercita queste mansioni nel nostro paese. Il Ministero del Welfare per questa regolarizzazione ha posto dei paletti precisi, fra cui quello di un rapporto di lavoro che deve essere in corso già da alcuni mesi, e la regolarizzazione vera e propria, come vi dicevo, sarà fatta a settembre. Come si dovrà procedere? La questione è molto interessante perché ci sarà una sorta di click day che già conosciamo, abbiamo sperimentato questa procedura 2 anni fa, ma più che un giorno dovrebbe durare tutto il mese di settembre, anche se ci sembra abbastanza naturale che l'attivazione della procedura telematica per permettere questa regolarizzazione selettiva sarà concentrata in pochi giorni. Ma insomma, per rispondere ai vostri dubbi e ai vostri quesiti, a patto che naturalmente tutto proceda secondo le indicazioni che sono state diffuse dal governo fino a questo momento, non ci siano ulteriori modifiche. Questa mattina, allora, appunto, per fare il punto della situazione, abbiamo interpellato 2 ospiti, la collega del Sole 24 Ore Francesca Padula, bentornata. Grazie, buongiorno. E bentrovato anche al prefetto Mario Morcone, capo dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno. Prefetto Morcone, benvenuto a Salva Danaio. Buongiorno, grazie. Grazie molte anche a lei. Allora, 800240024 è il numero verde per i vostri interventi, ci potete anche scrivere al 349-238-6666. Le procedure invece un po' meno telematiche, un po' più semplici per attivarvi con voi, con noi, le conoscete benissimo. Allora potete iniziare già da ora a prenotare appunto i vostri interventi. Diamo un'occhiata alla borsa, oggi molto tonica, situazione piuttosto positiva sui mercati per diversi motivi. Intanto perché ieri abbiamo alzato il velo sulla stagione delle trimestrali del settore bancario americano, Goldman Sachs utili record nel secondo trimestre dell'anno e quindi borsa che si è subito affrettata al brindisi, soprattutto sui titoli del settore bancario. Ma diciamo che complessivamente è una buona giornata, anche perché ci sono stati i risultati di Intel, quindi acquisti anche sul settore tecnologico, perché il mercato dell'auto è tornato positivo in giugno dopo numerosi mesi invece di vendite in flessione, e anche sul settore auto stamattina stanno tornando gli acquisti. Ecco le prestazioni degli indici del vecchio continente: più 1,71% per la borsa di Parigi, Francoforte più 1,90%, Londra più 1,41%, e a sorpresa Piazza Affari sta galoppando un po' più delle altre, sta guadagnando sul FTSE MIB adesso il 2,17%. I temi sono quelli che vi abbiamo indicato anche nel giornale radio: STM più 7,30, spinta dai risultati di Intel, appunto un ottimo rialzo per questo, per il gruppo italo-francese dei chip che non vedeva probabilmente da un bel po' di tempo. Poi Saipem più 4%, Tenaris più 3,77, era Tenaris stamattina che era partita con il turbo a Piazza Affari, guadagnava 7 punti, poi ha dimezzato il suo guadagno, ma comunque ci si può sempre accontentare. Pirelli più 3,71, Banca Popolare di Milano più 3,50, Buzzi Unicem più 3,35, A2A più 3, Banco Popolare più 2,8 con l'Ottomatica e Unicredit più 2,74%. Parlavamo dei risultati delle vendite del settore auto in giugno in tutta Europa, un risultato che è stato piuttosto positivo anche per Fiat, e il titolo a Piazza Affari guadagna il 2,21% e ritorna sopra i 7 euro, a 7,16 euro esattamente. In questo momento abbiamo un solo titolo negativo, Piazza Affari e Ansaldo, sta perdendo l'1,67%, mentre l'euro sul dollaro ha rispolverato quota 1,40, anzi adesso il rapporto di cambio è fissato a 1,40,53. Lasciamo la borsa, andiamo, tra l'altro borsa che monitoreremo con grande attenzione nel corso della giornata, perché abbiamo diversi dati economici che arrivano dagli Stati Uniti. Abbiamo il dato sull'inflazione, dopo aver conosciuto quello italiano oggi conosceremo quello degli Stati Uniti, abbiamo il dato sulla produzione industriale, insomma ancora dati da tenere sotto osservazione molto attentamente. Lasciamo però, vi ribadisco, la borsa, andiamo al tema di stamattina, sentiamo un po' come dovrebbe funzionare la procedura di regolarizzazione selettiva di colf e badanti che per molte famiglie italiane sarà possibile da settembre. 500 euro è un rapporto di lavoro che deve essere in corso da almeno aprile 2009. Sono questi i due principali requisiti fissati per la regolarizzazione di colf e badanti, secondo l'ultima versione del testo messo a punto dai ministri del welfare Maurizio Sacconi e dell'interno Roberto Maroni, che sarà presentata in Parlamento sotto forma di emendamento al decreto legge anticrisi. Un'operazione che dovrebbe interessare circa 500.000 lavoratori tra italiani e stranieri e che prenderà il via il 1 settembre per concludersi il 30 dello stesso mese. In quest'arco di tempo, infatti, gli interessati, italiani, europei, ma anche extracomunitari con permesso di soggiorno, dovranno presentare denuncia dopo aver versato il contributo forfettario da 500 euro. Ogni famiglia potrà mettere in regola una colf e due badanti, anche se per quest'ultime occorrerà fornire una documentazione che attesti la patologia o handicap della persona assistita. Non saranno invece accolte le richieste di coloro che hanno precedenti penali o sono sottoposti a misure di espulsione. Per quanto riguarda i lavoratori italiani, la denuncia dovrà essere presentata all'INPS, mentre per gli stranieri la domanda dovrà essere inviata via web allo sportello unico per l'immigrazione. La platea dei destinatari dunque è molto ampia. Si va da coloro che non hanno utilizzato il decreto flussi a quelli che ad oggi sono ancora in attesa di una risposta, ma comprende anche coloro che hanno già ottenuto il nulla osta dal precedente decreto, ma che preferiscono aderire alla nuova sanatoria, evitando così il costo del viaggio verso il paese d'origine, come previsto dal decreto. 800 24 00 24, vedo che stanno arrivando già tantissime telefonate con richieste di chiarimenti da parte dei nostri ascoltatori. Peraltro ci è arrivata anche una mail poco prima della trasmissione da parte di un'ascoltatrice che si chiama Roberta, la leggerò sicuramente. Roberta, abbia ancora qualche momento di pazienza, volevo fare prima di tutto un po' di ordine in questa materia che è mediamente abbastanza complessa. Allora, Francesca Padula, che differenza c'è fra questa regolarizzazione contributiva, regolarizzazione selettiva, sanatoria, come la chiamano in molti, e invece il decreto flussi, che in genere è il percorso istituzionale con cui viene regolato l'ingresso di stranieri nel nostro paese? Sì, dunque quello del decreto flussi è un'assunzione che riguarda lavoratrici, lavoratori stranieri che in teoria dovrebbero essere all'estero. Che cos'è il decreto flussi? Ogni anno il governo fissa un tetto di posti di lavoro da assegnare agli extracomunitari e poi appunto le famiglie fanno domanda. Questo negli anni, così per ricordarlo, era avvenuto prima con le famose code alle poste, poi con il click day telematico, e comunque queste procedure dei decreti flussi annuali hanno dimostrato che da parte delle famiglie e delle imprese italiane c'è sempre stata una domanda di gran lunga superiore ai posti messi a disposizione annualmente. Tant'è che adesso, perché si è arrivati a questa situazione e qual è la differenza appunto con la regolarizzazione? Sta per entrare in vigore il reato di clandestinità previsto dal pacchetto sicurezza. Non è ancora in vigore e lo sarà soltanto dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Allora si è venuta a creare questa situazione per cui in Italia si sa che questo numero di lavoratori irregolari, soprattutto diffuso nelle famiglie, è un numero di lavoratori, le stime parlano di 500.000, 800.000, ed è sicuramente una platea di persone verso la quale si sta per introdurre un reato. Quindi assolutamente le due cose non potevano coesistere. È un paradosso, ma è così. Questa regolarizzazione vuole intervenire appunto su questo. Quindi permetterà ai datori di lavoro che hanno i requisiti di regolarizzare il rapporto di lavoro, di evitare che queste persone irregolari vadano incontro ad un reato, quindi ad un'ammenda e all'espulsione. Dopodiché effettivamente il mercato del lavoro dovrebbe sicuramente essere depurato da tutto questo sommerso, sia nelle imprese. Naturalmente la regolarizzazione è rivolta alle famiglie, quindi sicuramente le famiglie nelle quali si è diffusa, è molto alto questo allarme di clandestinità, perché le persone che hanno alle dipendenze una badante, una colf irregolare rischiano i lavoratori. Quindi sicuramente sarà una procedura alla quale ricorreranno tutte le famiglie che possono. Certo, tra l'altro non ci dimentichiamo che sarà anche un importante aspetto economico quello da considerare, oltre al tema della clandestinità, perché chiaramente regolarizzando queste figure sono contributi che entrano nelle casse previdenziali, nel nostro sistema previdenziale pubblico, e chissà. Assolutamente. Sappiamo sì. benissimo quanto ce n'è bisogno, quindi anche questo è un tema importante. Prefetto Morcone, ci ha dato già una cifra, Francesca Padula, in termini di quanti lavoratori potranno essere regolarizzati a settembre. D'accordo con questa indicazione data dalla collega, 500.000 persone, 800.000, quali potranno essere appunto i destinatari del provvedimento? E tra l'altro specifichiamo ancora una volta con grande chiarezza, parliamo solamente di collaboratori familiari e badanti, cioè di quelle figure che assistono materialmente gli anziani delle nostre famiglie, quindi non parliamo di altre tipologie di lavoro, quindi su questo bisogna essere molto chiari. Mi aiuta in questa chiarezza, prefetto? Certamente, i numeri naturalmente hanno diciamo una loro flessibilità, nel senso che nessuno potrà dire o può dire quante persone e quante domande conteremo al 30 di settembre. Certamente intorno a 500.000 è un numero che noi immaginiamo altamente probabile. Il provvedimento, come è stato detto con molta precisione, è diretto soprattutto alle famiglie e quindi copre l'aiuto alla persona, quindi le cosiddette badanti, o l'aiuto alla famiglia, e cioè le colf. Naturalmente non escludo che possano esserci tentativi di inserimento anche di altre situazioni che cercheremo di monitorare per assicurare il massimo della trasparenza di questa operazione. E infatti, anche perché molti colleghi, mi scusi se la interrompo, prefetto, poi naturalmente la lascio concludere, molti colleghi, anche Marco Ludovico sul Sole 24 Ore, ma ne parlavamo anche a microfoni spenti con Francesca Padula, il tema è che il meccanismo di regolarizzazione, così come concepito dalla legge fino a questo momento, a meno che non intervengano delle modifiche, si presta ad un'illusione neanche tanto complicata. Io posso fare, c'era un esempio riportato dal Sole in questi giorni, poniamo il caso di un immigrato appunto che fa il muratore, può chiedere un favore, visto che le famiglie potranno assumere almeno 3 persone peraltro con questo criterio, sì, poi adesso specifichiamo anche questo, Francesca, può chiedere intanto un favore di essere assunto come colf. Però intanto è necessario trovare un datore di lavoro il quale si presti la responsabilità di presentare una domanda, di pagare evidentemente il contributo di 500 euro e poi ci sarà evidentemente uno screening da parte dello sportello unico. E poi mi faccio esprimere un'opinione personale, magari un po' in controtendenza in questo periodo. In fondo tutto quello che emerge dalla clandestinità e diventa regolare e in qualche modo contribuisce anche al nostro sviluppo economico, io non necessariamente lo considero così negativo. Benissimo, sì, guardi, tutto sommato, vista da questo punto di vista, non è neanche, noi come dire, la giudicavamo proprio dal punto di vista della legge, dei termini che questa prevede, però ha anche ragione anche sicuramente lei, prefetto. Allora, chi potrà mettere in regola la legge, chi potrà essere regolarizzato? Dicevamo, ogni famiglia potrà chiedere di mettere in regola, Francesca, una colf e 2 badanti. Allora, una colf e 2 badanti. Sulle 2 badanti, adesso la novità di oggi, volevamo poi arrivarci appunto mano a mano, probabilmente per ottenere l'assunzione di una badante bisognerà avere una certificazione. Non è chiaro se è una certificazione medica già in possesso della famiglia oppure se basterà semplicemente un'autocertificazione. Ecco, in proposito, sicuramente quello che bisognerà distinguere, il prefetto Morcone ci può aiutare, che questa procedura telematica non sarà una graduatoria, non sarà una gara, quindi le famiglie che hanno i requisiti possono essere tranquille. Che se anche fanno la procedura a fine mese. Esatto, che potranno comunque, quindi voglio dire, anche se ci sarà da raccogliere del materiale, dei documenti, ecco, non bisogna farsi prendere adesso dal panico, ci sarà tutto il tempo e soprattutto adesso bisognerà, chi si è rivolto ai patronati per il click day, probabilmente anche in questo caso ci sarà il coinvolgimento dei patronati. Dottor Morcone, la procedura del click day siamo stati coinvolti anche noi come quotidiani, i principali quotidiani, per permettere alle famiglie di avere il software e quindi di poter fare la procedura. Ecco, che voi sappiate in questo momento, sarà così anche per la regolarizzazione di settembre? E soprattutto, ecco, chi si deve attivare, non so, il Ministero dell'Interno, appunto il Viminale, prefetto Morcone? Day, perché in realtà si tratta di un click month, cioè praticamente di un'operazione che dura un mese. Vorrei quindi togliere la drammatizzazione di arrivare alle 8.001 del primo giorno. Non c'è un criterio cronologico, come è stato detto, ci sono 30 giorni nei quali ci sono molte opportunità per rivolgersi non solo a tutti gli enti e le istituzioni con le quali abbiamo già dei protocolli d'intesa, cioè i patronati, i sindacati e varie altre associazioni, ma noi stiamo chiedendo anche la discesa in campo e devo dire la disponibilità del Presidente Chiamparino dell'ANCI, perché anche addirittura la Polizia Municipale nei singoli comuni possa andare a casa di quelle persone che non siano in grado, non si sentono in condizione partecipare a questa procedura telematica. Vorrei solo sottolineare, fatemelo dire, che la procedura telematica non solo ha sconfitto la vergogna delle file alle poste che si ricordava prima, ma ha portato anche un'operazione di grande trasparenza, mettendo davvero tutti sullo stesso piano, mettendo tutti nella possibilità di partecipare senza che sia preferito nessuno. E non mi sembra in questo paese un motivo di secondo valore o di secondo momento. Certo. Certamente non bisogna drammatizzare, ci sono 30 giorni per poter sistemare, bisognerà naturalmente scaricare come nel passato il programmino, lo diffonderemo certamente sui siti dei giornali e anche su alcuni siti che poi indicheremo, e soprattutto faremo una campagna di comunicazione molto penetrante perché possa arrivare a tutti e tutti possano essere in grado di partecipare a questa procedura telematica. Allora, noto con piacere appunto che al di là dei precetti legislativi il prefetto Morcone è un uomo soprattutto di buonsenso, e questo ci fa molto piacere, perché è chiaro che poi orientarsi a una normativa così complicata, Francesca. No, poi devo dire che il prefetto Morcone mi sembra giusto aggiungere, è il regista di questa operazione, lo è stato anche nel famoso Click Day, durante il quale, lo voglio solo ricordare, ma c'erano questi alle 8:00 di quelle mattine del dicembre 2007, c'erano i server del Viminale, mi pare 16 server del Viminale, presi d'assalto, così come si succede, quindi stressati, come succede durante le elezioni politiche. Ecco, mi sembra che sia così, prefetto, quindi giusto per dare un'idea di oppure non ricorda molto lo ricorda volentieri. Anche poco valorizzata sotto il profilo, diciamo, tecnologico, perché ricevere in tempi così stretti un numero così elevato di domande è stata una scommessa che abbiamo vinto praticamente contro tutti. Ci ha creduto solo il ministro Amato, ma anche colleghi, tanti colleghi erano dubbiosi sulla capacità di reggere un'operazione così forte. Naturalmente abbiamo avuto il nostro piccolo incidente che non nascondiamo, che è quello famoso proprio a Milano, si è verificato, e abbiamo in corso ancora un procedimento, perché il paese Silon, compreso tra due parentesi, il programma non prevedeva, non lo riconosceva, due parentesi, quindi in qualche modo c'è stato un qualche ritardo proprio per i cittadini provenienti da quei paesi, ma anche questo stiamo sistemando e sistemeremo con grande disponibilità. Vorrei solo aggiungere che in questa occasione non c'è quel dramma, cioè in questa occasione non c'è un problema di orario e quindi non c'è la necessità di avventarsi nei primi momenti sul computer, ma lo si potrà fare tranquillamente anche la domenica se è cattivo tempo e non si può andare al mare. Insomma, quindi questa operazione di settembre può essere davvero colta come un'opportunità per molte, soprattutto un'opportunità che potrà essere colta in maniera un po' più serena. Allora, io faccio fare una domanda ad un ascoltatore e poi gli risponderemo dopo il break delle 12:30. Francesco, dalla provincia di Monza, Brianza. Francesco, benvenuto. Sì, buongiorno, grazie per avermi chiamato. Grazie a lei, ci dica. Volevo porre questa domanda al prefetto Morcone. Per una badante golf che avrebbe requisiti per il lavoro, cosa succede se ha un decreto di espulsione che gliel'hanno fatto nel 2003 e però lei non è rientrata nel suo paese, è rimasta qua in Italia? Con questa espulsione credo che sia un reato amministrativo, c'è la possibilità anche per lei di sanare la sua situazione. Francesco, la ringrazio. Siamo ritornati in diretta questa mattina per spiegare a tutte le famiglie italiane che sono interessate a questo come funzionerà la regolarizzazione di colf e badanti a settembre. Sarà tutto online, non ci saranno raccomandate da spedire, nessuna marca da bollo o simile, tranne il versamento del forfè contributivo con un bollettino di conto corrente postale, 500 euro per regolarizzare un lavoratore straniero, 300 nel caso di lavoratore italiano. Però ci sono tanti dubbi da parte degli ascoltatori e Allora, la domanda che ci aveva posto Francesco da Monza riguarda un caso piuttosto diffuso, che è quello di lavoratori che sono stati colpiti in passato da decreto di espulsione, ma che sono comunque riusciti a rimanere nel nostro paese, per cui non se ne sono andati pur avendo questo provvedimento addosso. Allora, il prefetto Mario Morcone insieme a Francesca Padula questa mattina ci stanno aiutando a capirne qualcosa di più. Prefetto Morcone, la regolarizzazione di cui stiamo parlando stamattina sospende, tra virgolette, il reato di clandestinità? Allora, intanto mi faccio correggere un attimo, almeno per quello che possiamo dire in questo momento, perché come avete anticipato è in atto il Consiglio dei Ministri e probabilmente in questa sede poi verrà concordato definitivamente la versione formale dell'articolo che verrà inserito come maxi emendamento nel decreto anticrisi. I 500 euro sono 500 per tutti, nel senso che sono 500 non solo per il lavoratore straniero, ma anche per il datore di lavoro e il lavoratore italiano che deve mettersi in regola dal punto di vista contributivo. Quindi la misura per il momento è unica, è di 500 euro, almeno che qualcosa non cambi in queste ore. La ringrazio per la precisazione. Tornando invece al tema, alla domanda di Francesco, le espulsioni, tutte le espulsioni per motivi amministrativi sono sospese, cioè le espulsioni per non rispetto del titolo del permesso di soggiorno sono certamente sospese, quindi non ci sarà problema per le situazioni, per le tante situazioni che conosciamo. Invece non rientrano nei casi, nella sospensione, i casi appunto di espulsione per motivi di ordine pubblico. Di sicurezza dello Stato, le espulsioni o le condanne anche di primo grado per reati gravi, o le espulsioni che riguardano il sistema Schengen, cioè di persone segnalate in base ad accordi o a convenzioni internazionali, ma il caso più comune è proprio quella dell'espulsione amministrativa di chi non era in possesso del permesso di soggiorno, e questa rientra certamente nella regolarizzazione, quindi nella sospensione ai fini della regolarizzazione, per favorire la regolarizzazione. Un'altra domanda molto diffusa fra i nostri ascoltatori in questo momento, prefetto Morcone, allora queste persone che potranno avvalersi di questa regolarizzazione e quindi di non subire gli effetti dei decreti di espulsione dei quali erano stati appunto colpiti, sono riusciti a rimanere nel nostro paese e probabilmente per sopravvivere avranno anche lavorato, adesso però per sanare la propria situazione dovranno dimostrare di avere un rapporto di lavoro almeno dallo scorso aprile. Qua in molti si chiedono, ma insomma, soprattutto queste figure, come fanno a dimostrarlo concretamente? Che tipo di documentazione sarà necessario produrre? Questo ovviamente sarà un compito poi a carico del datore di lavoro, immagino. Prefetto Morcone. Certo, è proprio questo il punto, è il datore di lavoro che dovrà diciamo attestare che ha un rapporto di lavoro con il cittadino di cui discutiamo antecedente alla data del 30 di giugno e quindi nei tre mesi antecedenti, cioè fino dal 30 di marzo sostanzialmente, o dal 1 di aprile, che più o meno lo stesso, ma fa carico al datore di lavoro questo tipo di dichiarazione, evidentemente è sotto la responsabilità di chi poi effettuerà la richiesta di emersione. È proprio un'autocertificazione, chiamiamola così, che non comporta di allegare alla domanda in sostanza nessun tipo di documentazione, che è impossibile produrre peraltro. No, in questo momento non è prevista alcuna, solo la dichiarazione del datore di lavoro, quindi la richiesta di emersione e di regolarizzazione da parte del datore di lavoro. Mohamed, dalla provincia di Pavia, benvenuto, 800 24 00 24, continua ancora a ricordare il numero verde per i vostri interventi, ci dica Mohamed. Come io ho una partita IVA in un'officina di meccanico, ho aperto un anno e mezzo adesso. Sì. E io ho un fratello qua in Italia senza documento e vorrei sapere se posso farlo per lui su mia dita o qualcosa. Un'altra domanda, come io ho due fratelli giù in mio paese in Egitto, voglio portare qua, se puoi farlo anche il documento per portare di qua. Allora andiamo con ordine, Mohamed. Intanto lei da quanto ha questa azienda e da quanto è in Italia? Io sono del 98 qua in Italia e lavorato, sono 8 anni e adesso così, che dopo una partita ho fatto una partita di vetemicane, qualcosa così. Grazie Mohamed. Francesca, perché il fatto di essere un lungo soggiornante è una condizione credo fondamentale per poter permettere a Mohamed ha le condizioni per poter assumere il fratello? Allora, se Mohamed ha la carta di soggiorno, però stiamo parlando di regolarizzazione di lavoro domestico, quindi lui direi che assolutamente il fratello non può regolarizzarlo e assumerlo nell'azienda meccanica e a questo punto mi rifaccio quello che diceva il prefetto Morcone all'inizio, ok, va bene appunto l'emersione del maggior numero di persone, ma mi sembra che proprio tra i requisiti sia quello di assumere figure professionali precise. Ci saranno dei controlli, prefetto Morcone? Cioè, ecco, risponda alle a questa domanda. Prefetto. I controlli sono anche sull'attendibilità evidentemente di quello che il datore di lavoro diciamo presenta nella domanda. È chiaro che se io cerco di assumere mio fratello come colfo, come badante, insomma è chiaro che la situazione è palesemente anomala. Sospetta. Ora questo lo valuteremo e faremo delle riunioni anche col Ministero del Lavoro per fare delle circolari esplicative e concordare insieme i criteri e i paletti da mettere. Certamente insomma sta alla responsabilità del datore di lavoro quella insomma di non esagerare, ecco, mi permetterei di dire di non esagerare perché poi evidentemente dovremo tener conto anche delle false dichiarazioni che sono punibili anche ai sensi della legge penale. E quindi il buon senso vale, deve guidare assolutamente tutta l'operazione, noi, infatti deve valere anche per chi fa queste dichiarazioni di emersione, perché siamo tenuti poi a tutti a rispettare la legge. Abbiamo parlato appunto di una sanatoria che può sicuramente permettere di regolarizzare molte situazioni problematiche, però questa è forse un po' più problematica delle altre. Francesca, stavi aggiungendo qualcosa con il prefetto? No, appunto ci sono invece delle famiglie, anche delle famiglie straniere e quindi delle donne extracomunitarie che lavorano in possesso di carta di soggiorno, quindi dei requisiti hanno, sono lungo soggiornanti, che hanno bisogno di assumere e quindi magari sono delle loro parenti che vengono dall'estero, però delle persone che li aiutino nella vita, nella cura dei figli. Cioè ci sono delle famiglie con tre figli extracomunitari, insomma ne abbiamo raccolto alcune testimonianze. In questo caso non si può, ecco, voglio dire, non si può sempre dire che ci si, che loro cerchino di assumere parenti, e invece a volte c'è proprio la necessità, anche per le famiglie extracomunitarie. Chi lo stabilisce, Francesca? Ci saranno, appunto, come diceva il prefetto Morcone, dei controlli. Infatti, allora sentirei Fabio da Verona. Fabio, benvenuto. Grazie, buongiorno dottoressa. Buongiorno. Dunque, pronto, io volevo porre una domanda. Io sono un 88enne, sì, vedovo, invalido all'80%. Uh-huh. Adesso come regalo mi è arrivata anche una frattura a una vertebra della mia colonna vertebrale. Tenga duro, io Fabio. Sono in condizione, com'è? Tenga duro. Pronto? Le volevo fare, no, non le volevo fare solo tanti auguri. Tenga duro, Fabio. Ma io sono uno duro, sai, io sono bravissimo. Una penna nera, sono un cadorino, anche se risiedo a Verona. Adesso mi trovo in condizioni di non essere più quello che ero 2 mesi fa. Uh-huh. Io non posso più chinarmi, io ero autosufficiente, anche se ero vedovo, la casa me la curavo io, facevo da mangiare io, ero. Adesso ha bisogno d'aiuto. Adesso io pongo questa domanda. Io sono costretto adesso a trovare una persona che governi la mia casa, mi muovi da una davanti, certo, che mi faccia da mangiare, che mi pulisca la casa. E questa domanda mia si riferisce soprattutto al fatto che io dovrò assumere una persona extracomunitaria che qui come turista non ha il permesso di soggiorno valido finora, e io se devo assumere devo pagare anch'io quella quota di 500 euro? Allora Fabio, il tema è che per fare un'assunzione, chiamiamola regolarizzazione in questo caso, lui dovrebbe dimostrare che questa persona lavora per lui già da aprile, Francesca, se sì, non ho capito male. Sì, sì. Secondo i criteri, diciamo, della sanatoria di cui stiamo parlando questa mattina, l'alternativa è che Fabio cerchi qualcuno che invece è in regola nel nostro paese e che quindi possa per evitare contrattualizzare di pagare questo forfè contributivo, deve trovare una persona che abbia il requisito del permesso di soggiorno e quindi poterla assumere a quel punto direttamente all'INPS. all'INPS senza pagare nulla. Se invece la lavoratrice è un'extracomunitaria senza permesso, a meno che non ci siano o non ci saranno forse delle esclusioni per i redditi minimi, può darsi appunto che in queste riunioni di cui accennava il prefetto Morcone poi alla fine il governo decida di agevolare le famiglie, come nel caso di Fabio, un reddito solo, una pensione sola, allora magari ci saranno delle agevolazioni. Noi volevo solo ricordare che il numero di badanti in Italia è di gran lunga superiore al numero dei dipendenti del sistema sanitario nazionale, che quindi siamo di fronte a un'emergenza anche in questo caso, e probabilmente i casi come quelli di Fabio verranno accolti. Allora, io adesso aspetto, volevo anche sentire l'interpretazione del prefetto Morcone sul caso di Fabio, che appunto avendone bisogno adesso stabilendo che le dichiarazioni mendaci che non possono essere accettate, però non lo so lui che cosa può fare, magari andare a dire che in ogni caso questa persona sulla quale lui ha puntato la sua attenzione lavorava con lui già ad aprile. Per quanto ci riguarda, noi dobbiamo tener conto delle domande dei datori di lavoro che sotto la propria responsabilità dichiarino che evidentemente avevano un contratto nei 3 mesi antecedenti il 30 giugno. Non possiamo fare diversamente. Comunque, per quanto riguarda in particolare le badanti, non ci sarà una soglia di reddito, quindi... E poi dovrà lui un attimo trovare la soluzione che ritiene più saggia. È un caso un po' complicato. Insomma, abbiamo appurato che il nostro Francesco da Verona non può purtroppo sistemare la sua situazione piuttosto problematica in questo momento, ricorrendo a quanto prevede adesso questa sanatoria in arrivo, questa regolarizzazione selettiva in arrivo per colf e badanti. C'è un altro caso, perché poi scopriamo ovviamente che non è niente lineare, perché ovviamente ci sono tantissimi casi differenti sul territorio, e vi volevo leggere appunto, come promesso all'inizio, questa mail che ci è arrivata questa mattina poco prima della trasmissione dalla nostra ascoltatrice Roberta, che ci racconta che ha una suocera di 89 anni che ha una badante da 2 anni e quindi evidentemente lavora con questa famiglia da prima dell'aprile 2009. Ne siamo assolutamente contenti, una persona capace ed affidabile, mai avuto problemi. Purtroppo questa suocera da 2 mesi sta peggiorando le sue condizioni di salute, non ci sono lunghe aspettative di vita. Allora, nel malaugurato caso in cui questa persona venisse a mancare prima del 1 settembre, cioè la suocera, possiamo lo stesso mettere in regola la badante, cioè praticamente, visto che la procedura telematica si attiva a partire dal 1 settembre, oppure posso già attivarmi fin da ora? Prefetto Morcone, visto che lei è l'esperto delle indicazioni di buonsenso questa mattina. Queste sono indicazioni davvero di buonsenso, più che di rispetto della legge. È chiaro che se questa persona ha un legame così forte anche con la famiglia e dovesse verificarsi questo caso estremo, la si può forse anche assumere come colf e poi cambierà lavoro. Insomma, su questo si ragiona e si troverà una soluzione, ma la devono trovare loro, evidentemente, e prospettare a noi una situazione che sia accettabile e sostenibile sulla base della norma. 800 24 00 24, torno a ricordare il numero verde per i nostri ascoltatori, adesso ne sentiamo ancora un paio, però Francesca Padula, ci sono molti ascoltatori che ci stanno segnalando un altro aspetto, alcuni ci raccontano di essere ancora in attesa della risposta dell'istanza per l'ultimo decreto flussi. Come si incrociano i due provvedimenti? Ecco, è una condizione molto frequente anche questa, cioè ci sono molte famiglie che aspettano la risposta per il click day del 2007, sono quasi, cioè in alcune città sono già terminate le pratiche del 2007 e si è iniziato a distribuire le quote del 2008. Nel 2008 è stato dato più spazio al lavoro domestico, quindi 105.000 posti di lavoro. Che cosa succede? Da quello mi sembra di aver letto che comunque nella procedura ci sarà una schermata nella procedura telematica in cui le famiglie che hanno fatto domanda a dicembre 2007 potranno precisare di aver già fatto domanda, ma potranno seguire la strada della regolarizzazione, quindi il forfè che chiude la procedura adesso a settembre e che evita, come si diceva all'inizio, il viaggio di andata e ritorno del immigrato per andare a prendere il visto nel paese di origine, che era, diciamo, questo rimedio per del decreto flussi per le persone che erano già in Italia. Insomma, questo è quanto dobbiamo appunto indicare a chi è in attesa ancora della risposta per quello che riguarda appunto l'ultimo decreto flussi. No, intanto mi stavo anche un po' distraendo perché ho notato che Giovanni da Roma, che è in attesa al telefono, praticamente aveva una domanda simile a quella che ci ha posto la nostra ascoltatrice che ci ha scritto. Giovanni. Sì, molto simile. Sì. Io sono in una fase più avanti, nel senso che io ho avuto la risposta positiva il 10 giugno di quest'anno. Sì. La badante è partita il 22 e tornerà il 2 agosto. Spero tanto che ci trovi mio padre, perché io sto andando a prendere il bombolo d'ossigeno. Cosa facciamo? Questa lo guarda mio padre come da 5 anni. No, ma lei ha ricevuto la risposta di giugno di che cosa rispetto al decreto flussi? Io ho fatto la domanda del decreto flussi al 17 dicembre. Ma allora lei, Giovanni, a posto? Non credo che abbia nulla a che fare con la regolarizzazione di cui stiamo parlando questa mattina. Credo che la lavoratrice sia andata all'estero proprio a prendere il visto. Quindi lui aveva già ritirato il nulla osta in prefettura, quindi credo che la sua procedura sia proprio terminata. Giovanni, quando lei rientra, ma il contratto non l'ho fatto. Ma lo farà quando rientra, entro 8 giorni deve andare allo sportello unico. Ma a nome di mio padre lo faccio, che è morto. Quello ecco. No, aspetti, però per questi casi è previsto, e credo fosse già previsto nel decreto flussi, chiediamo conferma al prefetto Morconi, il subentro, cioè la possibilità che un datore di lavoro, proprio nel caso di decesso e forse anche in alcune altre ipotesi, che ci sia un subentro da parte di un nuovo datore di lavoro familiare. Prefetto Morcone. Esattamente così, il figlio può tranquillamente subentrare, noi speriamo che al rientro il 2 agosto il papà del signor Giovanni sia tranquillamente in vita e duri ancora tempo, certo. Ma in ogni caso il figlio può subentrare firmare il contratto di lavoro con la cittadina che rientra regolarmente con il bis. Sostanzialmente la pratica per lui si è conclusa. Io vorrei solo sintetizzare, però, se me lo consentite, certo, la questione che è stata accennata precedentemente e a cui ha dato risposta giusta in realtà Francesca Padula, ma per chiarire ancora meglio. Ci sono 3 situazioni: la situazione di chi è irregolare, punto; la situazione di chi ha in corso il decreto flussi e ha ottenuto il nulla osta, il caso per esempio del signor Giovanni, magari con il lavoratore che non è ancora partito per il paese di origine, e la terza situazione, cioè coloro che hanno in corso il decreto flussi ma non ancora sono stati chiamati o hanno avuto un parere favorevole. In tutti e 3 questi casi è affidata alla valutazione e alla decisione del datore di lavoro che cosa sia preferibile fare, se partecipare o meno alla regolarizzazione. E partecipando alla regolarizzazione, come è stato detto, evidentemente si rinuncia alla precedente richiesta del decreto flussi. Noi cercheremo di recuperare i dati che già abbiamo col sistema informatico e in ogni caso quelle quote saranno liberate per altri lavoratori, magari non badanti e colf, che potranno usufruire di quelle quote che saranno rimaste libere. Ambrogio dalla provincia di Lecco, abbiamo ancora un'ultima domanda, riesco a sentire lei, forse anche qualcun altro, ci dica tutto. Buongiorno, grazie. Una cortesia, quando sarà attivata la procedura, io dovrò fare domanda per mia mamma come badante. Un'amica mi chiede se io potrò farla per nome suo o conto suo una domanda, non sono in grado di lavorare in internet, diciamo. Cioè, se si tratta solamente, Ambrogio, di fargli una consulenza informatica, di mettersi lei davanti al computer e inserire i dati anagrafici di questa persona, non capisco... Cioè, a nome dell'amica, l'importante è che la domanda sia fatta da lei, praticamente, materialmente da lei, ma a nome della persona interessata, direi. Sì, esatto, perché mi ricordo che la procedura precedente non consentiva di fare più domande su 2 datori di lavoro diverso. No, non consentiva di assumere più persone, lo stesso datore di lavoro non poteva fare domanda per più persone. Lei si riferisce alla precedente procedura quale? Quella dei flussi? No, con la telematica. Il click day del 2007, sì. No, ma io qua mi pare di capire che lei abbia solamente ricevuto una richiesta di aiuto ad inoltrare la domanda, ma chiaramente i requisiti anagrafici che inserisce credo che siano quelli della sua amica, della sua collega. Sì, esattamente. Saranno 2 richieste diverse, 2 datori di lavoro diversi. Ma penso di sì. Prefetto Morcone, a meno che il Viminale non mette una webcam. Ho sentito... spedire dallo stesso computer fino a 5 domande. Io spero che il signore che ha fatto la domanda non debba spedire più di 5 domande. Beh, qui mi pare che ci limitiamo a 2. Allora, io non ho più tempo per sentire altri ascoltatori. Prefetto Morcone, ci siamo dimenticati di dire qualcosa di importante relativamente al tema di cui abbiamo parlato questa mattina, e secondo lei quando dovremmo riorganizzare un'altra puntata di Salvadanaio per dare altri pratici suggerimenti e indicazioni ai nostri ascoltatori? Io ho già convocato Francesca Padula per la prima puntata di Salvadanaio in diretta della fine di agosto, che è il 31, quindi lunedì 31. Se ci sarà anche lei ci farà molto piacere. Io, se vorrete, ci sarò senz'altro. Benissimo. Noi lavoreremo tutto questo mese di agosto proprio in funzione delle procedure, e probabilmente dopo il 20 effettivamente una campagna di comunicazione importante andrà fatta. Se voi ci darete una mano, certo, 20 luglio naturalmente, o 20 agosto. Dei cittadini. 20 luglio o 20 agosto? No, 20 agosto. 20 agosto, 20 allora sì. Benissimo, grazie molte Prefetto Morcone, naturalmente buon lavoro, perché grazie, sarà un mese piuttosto impegnativo. Io devo solamente ricordare una cosa prima di salutarti, Francesca, che la manovra d'estate, ne abbiamo parlato tante volte, siccome introduce molte novità, il Sole 24 Ore ha fatto una grande campagna per spiegare tutti i termini di questa manovra, e è stato organizzato anche sul sito del Sole 24 Ore proprio un filo diretto con gli ascoltatori. Allora voi andando a cercare la manovra d'estate 2002 potete inoltrare tutti i vostri quesiti sulla manovra agli esperti del Sole 24 Ore. Domande e risposte sono pubblicate in questi giorni sul quotidiano. La pubblicazione delle risposte è iniziata già martedì 14 luglio, cioè praticamente ieri. Grazie a tutti, grazie Francesca per essere stata con noi. Grazie, grazie a Gaia Romani e ad Alessandro Longoni per la collaborazione in redazione. Giorgio Mattei oggi in assistenza tecnica. Torniamo naturalmente domani. Buona giornata.